La situazione è abbastanza difficile per noi, ma questa è, la situazione è iniziato a essere difficile da un annetto a questa parte sostanzialmente, quando il comune ci peggiora sistematicamente le condizioni di relazione per l'apertura dei mercati, in particolare le imposte di occupazione del suolo pubblico. Ora, noi non siamo dei commercianti, questo è molto importante sottolinearlo, nell'associazione Campi Aperti si vende soltanto le cose che la persona che producono, i produttori fanno, e quindi abbiamo dei margini di guadagno che sono sicuramente bassi, cioè noi comunque le nostre aziende agricole sono tutte realtà che vivono ai margini della sopravvivenza. Ecco, il peggioramento delle condizioni economiche, soprattutto le tasse sull'occupazione del suolo pubblico e le tasse di smaltimento rifiuti, tra l'altro rifiuti che noi non produciamo perché siamo molto attenti a questo aspetto, ci impediscono di aprire questo mercato e ci mettono in difficoltà negli altri mercati. Siamo preoccupati di questo andazzo. Noi vediamo nel comune un muro di gomma nei confronti della nostra associazione, questo non è accettabile. È da 15 anni che stiamo presenti a Bologna, 16 per la precisione. Abbiamo creato una rete di mercati molto importante, anche con un sistema di autocontrollo molto innovativo. Questo l'abbiamo fatto senza chiedere mai un euro di contributo pubblico. Non abbiamo mai ricevuto un euro di contributo pubblico, abbiamo sempre ampliato i mercati e organizzato le iniziative attraverso le nostre risorse. Ora che questo non venga minimamente riconosciuto ci scandalizza, e secondo noi dovrebbe scandalizzare anche i cittadini. Noi facciamo agricoltura biologica, piccola agricoltura biologica, siamo estremamente attenti al benessere animale, facciamo un'agricoltura buona, sana, che tutela l'ambiente, tutela anche la salute dei consumatori secondo noi. Questo è un tipo di agricoltura che dovrebbe essere sostenuta assolutamente. Invece le risorse vengono dirottate, vengono utilizzati soldi per portare le persone a fico, una realtà ambigua, mentre una realtà limpida come quella di Campi Aperti viene ostracizzata, e questo è quello che siamo venuti a denunciare questa mattina. Ci ritroviamo sicuramente in una situazione di difficoltà, anche perché abbiamo i prodotti in campo che abbiamo bisogno di vendere, e redditi per i piccoli agricoltori che sono una risorsa preziosissima per il territorio che non si riesce ad avere. Quindi, come dire, questa situazione ci mette in grossissima difficoltà. Peraltro noi sviluppiamo dei progetti in autonomia, ma in collaborazione con realtà molto importanti. Pensiamo soltanto al progetto Sementi, che stiamo sviluppando in collaborazione col professor Ceccarelli, che sono progetti molto interessanti, ma purtroppo non vengono riconosciuti da questo comune. Il comune di Bologna nel 2015 ha premiato con un Bologna Award Ceccarelli Salvatore, un genetista con cui abbiamo relazioni strette. Stiamo sviluppando dei progetti di ricerca con questo genetista, però la realtà di Campi Aperti, non sappiamo per quale motivo, contemporaneamente, mentre viene premiato Ceccarelli, non viene sostenuta. Queste sono le contraddizioni che stiamo vivendo in questo periodo.